perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Buona giornata, sono le 13 in punto in questo istante, una buona giornata da Enrico Pagliarini, queste le notizie e le notizie in modo particolare che approfondiremo nel corso della prima parte di Effetto Giorno. Per la stima preliminare dell'Istat, disoccupazione a marzo all'11,4%, ai minimi dal 2012, ma dall'inflazione nessun segnale positivo, l'Italia rimane in deflazione. Governo contestato a Pisa, scontri fra polizia e antagonisti. Violentata e buttata dal balcone. C'è stata una svolta oggi nelle indagini sulla morte della piccola Fortuna un anno fa a Caivano, vicino a Napoli. Abitanti del quartiere di Palermo, Calsa, cerchiano la polizia e aiutano un rapinatore a scappare. Gli agenti costretti a sparare in aria per disperdere la folla. Iniziamo dai dati dell'Istat pubblicati questa mattina. Il tasso di disoccupazione a marzo è sceso all'11,4%, il livello minimo dal dicembre del 2012. Secondo questa stima, che è la stima preliminare dell'Istat, rispetto a febbraio si registra un calo di 0,3 punti percentuali, mentre rispetto ad un anno prima il calo è di 1,1 punti. I disoccupati scendono a 2.895.000. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti esprime soddisfazione per questi dati. Secondo Poletti c'è ancora molto da fare, ma i dati confermano che il Jobs Act funziona. Ci sono altri numeri, altri dati dell'Istat che raccontano come va l'economia. Il nostro paese è ancora in deflazione, questa non è sicuramente una buona notizia. Ad aprile i prezzi sono in calo dello 0,4% rispetto allo scorso anno. Prima della politica, con lo scontro nel centrodestra a Roma, che naturalmente si ripercuote poi anche a livello nazionale, una notizia dell'ultima ora arriva da Pisa. Ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e polizia al termine di un corteo di circa 500 persone promosso da centri sociali, sindacati di base e collettivi universitari, al quale ha aderito anche l'associazione vittime del Salva Banche. Scontri e cariche di alleggerimento sono avvenute quando il corteo ha raggiunto la recinzione dell'area della ricerca del CNR di Pisa, dove si celebrano proprio oggi i 30 anni dalla prima connessione ad internet italiana, alla presenza del ministro dell'istruzione Giannini e in collegamento video il presidente del Consiglio Matteo Renzi. I manifestanti hanno lanciato oggetti e ortaggi, la situazione poi è tornata alla normalità. E adesso, come dicevo, la politica, con lo scontro in primo piano nel centrodestra a Roma. Allora, per capire quello che sta succedendo, ci colleghiamo con Roma. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo l'abbraccio con Alfio Marchini, Silvio Berlusconi continua a sperare nell'unità del centrodestra. Non c'è nessun nuovo patto del Nazareno, assicura l'ex Cavalieri. Il governo Renzi è illegittimo e abusivo, dobbiamo mettere fine all'emergenza democratica. Quindi una decisione su Roma non cambia questo atteggiamento. Berlusconi sostiene: divisi perdiamo, dobbiamo ritrovare insieme i voti moderati che abbiamo smarrito. E boccia come stupidaggine il ricatto di Renzi per le sue aziende, come paventato invece da Matteo Salvini. Ma il leader della Lega risponde di auspicare un centrodestra diviso tra liberi e da chi ha legami economici. Il tempo passa per tutti, dice Salvini, anche per Berlusconi, che non può raccontare le stesse cose da 20 anni. E Giorgia Meloni chiede agli elettori di Forza Italia di votarla contro gli inciuci. Forza Italia vuole andare a rafforzare un governo infame, questa è la tesi della leader di Fratelli d'Italia. Da parte del nuovo centrodestra, Angelino Alfano plaude alla scelta di Marchini, che definisce di grande razionalità. Secondo i sondaggisti, la convergenza su Marchini da parte di Forza Italia cambia lo scenario politico. Il centrodestra può vincere anche se deve lavorare parecchio. Giachetti, Meloni, Marchini vengono dati al 20% dei consensi, Raggi del Movimento 5 Stelle al 25%. A te, Enrico. Bene, grazie ad Elisabetta Fiorito. Queste sono le ultime novità che riguardano il centrodestra a Roma, e a proposito di questo sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Il centrodestra, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, termina qui. Parola di Giorgia Meloni dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi di puntare su Alfio Marchini per le amministrative di Roma. Sul piano pratico e teorico, la Meloni non ha tutti i torti. Fin dal 1994 la prima vittoria del centrodestra venne determinata dall'alleanza tra Forza Italia, Lega, Alleanza Nazionale e centristi. Si tratta di quattro anime diverse tra loro, poi confluite in un unico progetto politico guidato e tenuto insieme fino ad oggi da Silvio Berlusconi. Nel corso del tempo, solo quando una delle stampelle della coalizione si è sfilata, il centro-sinistra è diventato poi maggioranza relativa nel paese. È accaduto nel 1996, 2006, 2013. 22 anni dopo, la geografia politica del paese è nettamente cambiata e la competizione elettorale non si gioca più sulla contrapposizione tra centrodestra e centro-sinistra, bensì sullo scontro tra i due blocchi storici e il Movimento 5 Stelle. La scelta di Silvio Berlusconi di appoggiare Alfio Marchini a Roma determina dunque nei fatti il disfacimento del centrodestra nella sua concezione storica. Nasce così un'area in cui nessun soggetto politico supera il 15% dei consensi su base nazionale e senza le debite alleanze imbocca una sara impervia irta di difficoltà dagli esiti ormai scontati. È tanto vero questo che il sondaggio odierno dell'Istituto Piepoli prevede la vittoria della Raggi a Roma e di Sala a Milano. Chiudiamo questa pagina politica, anche se vi diamo conto di alcune dichiarazioni che ha fatto poco fa Matteo Renzi annunciando quello di cui si occuperà il Consiglio dei Ministri di questa sera. Renzi dice: questa sera in Consiglio dei Ministri ci saranno le misure per le banche e altri provvedimenti come il decreto missioni e le nomine. Sarà un Consiglio dei Ministri che durerà e sarà impegnativo. Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri è stato programmato per le 18. A proposito della riunione di questa sera, secondo appunto quanto ha dichiarato Renzi, ci sarà anche il bando sulla banda ultralarga. A parte il gioco di parole, comunque è sicuramente una buona notizia. Il GUP di Milano, Laura Marchiondelli, ha spacchettato il provvedimento sul caso Ruby Ter, in cui Silvio Berlusconi è imputato insieme ad altre 30 persone con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il giudice ha disposto la trasmissione degli atti per competenza territoriale in altri 6 tribunali. Una parte con 16 imputati rimane a Milano, mentre altre posizioni, con sempre Silvio Berlusconi imputato, sono state trasferite a Torino, Pescara, Treviso, Roma, Monza e Siena. Una nuova sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto l'adozione incrociata di 3 figli a 2 donne. Uno dei 3 bambini è nato da una delle 2 donne e gli altri 2 dalla sua compagna. Non essendo stata appellata dalla procura nei termini prescritti dalla legge, la sentenza è oggi definitiva. Il Tribunale per i minorenni di Roma, ricordiamo, aveva già riconosciuto quest'anno per la prima volta in Italia l'adozione del figlio del partner ad una coppia di donne e un'altra adozione ad una coppia di uomini. In tutti e 3 i casi si tratta della ormai famosa stepchild adoption, auspicata da varie associazioni e che il Parlamento per il momento non ha inserito nella legge sulle unioni civili. Parliamo di immigrazione, tema al centro dei colloqui fra alcuni degli stati membri dell'Unione Europea. Dopo quello con il ministro Alfano, il ministro dell'interno austriaco Sobotka si è incontrato oggi con il collega tedesco De Maizière. L'accordo raggiunto con la Turchia dall'Unione Europea quest'estate potrebbe spingere molti migranti a cercare di raggiungere l'Europa attraversando il Mediterraneo dalla Libia verso l'Italia, un'eventualità che preoccupa il ministro dell'interno tedesco De Maizière, che oggi ha incontrato a Potsdam il suo omologo austriaco Sobotka. L'Italia è ben lontana dall'essere sopraffatta dai migranti, deve fare di più per difendere le sue frontiere marittime meridionali e deve anche trattare con il nuovo governo libico, ha aggiunto De Maizière. Sobotka, che ieri a Roma ha incontrato Angelino Alfano, ha invece spiegato che al Brennero i lavori per la realizzazione degli impianti alla frontiera continueranno, ma non verranno introdotte barriere fino a quando la situazione non lo richiederà. Sul Brennero è tornato anche il nostro ministro dell'Interno. L'Italia non è certo un paese che si fa spaventare da un gabbiotto, ha detto stamattina Alfano, aggiungendo che si sta lavorando con impegno per controllare gli itinerari italiani che portano al Brennero affinché non vi sia né il motivo, né la scusa, né il pretesto per costruire quel muro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di immigrazione, una notizia di poco fa Nel corso della mattinata la nave aviere della Marina Militare ha condotto operazioni nel canale di Sicilia raccogliendo in mare da due gommoni 238 migranti. Secondo le ultime notizie sono 600 i migranti soccorsi dall'inizio di questa settimana dalle navi che operano nel canale di Sicilia. A proposito di immigrazione, una notizia che arriva dalla Francia: un rifugiato etiope in pericolo di vita dopo essere rimasto gravemente ustionato questa notte in un incendio divampato nel campo profughi di Calais, nel nord della Francia. Nella baraccopoli, nonostante gli sgomberi delle ultime settimane, vivono ancora 3.500 migranti, secondo la prefettura, 5.000 stando alle associazioni, tutti nella speranza di poter raggiungere la Gran Bretagna attraversando la Manica. Cambiamo argomento. I carabinieri di Casoria hanno arrestato oggi una persona per l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo, avvenuta il 24 giugno del 2014 nel Parco Verde di Caivano. Il corpo della bambina, che allora aveva 6 anni, fu trovato davanti allo stabile dove abitava, molto probabilmente dopo essere precipitata. Allora, ci ricorda questa vicenda e ci racconta le ultime novità da Napoli. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sul caso della piccola Fortuna Loffredo, l'ordinanza che resta eseguita dai carabinieri questa mattina nei confronti di Raimondo Caputo segna la svolta in un'indagine che fa emergere un contesto sociale raccapricciante, estremamente disastrato, in cui gli affari illeciti e criminali svolti nel Parco Verde di Caivano consentono, pur di non avere le forze di polizia sul territorio, di coprire omicidi e violenze sessuali su bambini. Raimondo Caputo, come ha spiegato il capo della Procura Napoli Nord, dunque la procura che è sita ad Aversa, in provincia di Caserta, Francesco Greco, è accusato dell'omicidio di Fortuna avvenuto nel Parco Verde di Caivano, come dicevi, il 24 giugno del 2014, ma anche di abusi sessuali. Dalle indagini è emerso che Caputo ha costretto la bambina di 6 anni a salire sul terrazzo dell'ottavo piano dello stabile in cui abitava, per poi lanciarla nel vuoto, forse per il rifiuto della piccola di subire l'ennesima violenza sessuale da parte dell'uomo. Caputo, già sotto misura cautelare con la moglie per la violenza su una 12enne, sarebbe colpevole di aver abusato sessualmente anche di altri 2 minori, tra cui la compagna di gioco di Fortuna. La mamma di Fortuna ha denunciato più volte, lo ricordiamo, l'omertà dei vicini, ma dice il procuratore Greco si è andati molto oltre perché si sono registrati comportamenti posti in essere per inquinare le prove e dichiarazioni che falsavano la realtà. 3 i bambini allontanati dal Parco Verde di Caivano che, dicono gli psicologi, oggi tornano a sorridere. È tutto. Grazie a Laura Viggiano. A proposito di omertà, un gruppo di abitanti del quartiere Calsa di Palermo, assieme ad alcuni commercianti, hanno aiutato un rapinatore inseguito dalla polizia a scappare. Gli agenti sono stati accerchiati e sono stati costretti a sparare in aria per disperdere la folla. Di questo ci occuperemo più tardi nel corso di Effetto Giorno. Adesso cambiamo argomento, parliamo di terrorismo. Gli investigatori della Digos e della ROS stanno analizzando computer, smartphone e altro materiale informatico sequestrato ai 4 arrestati nel blitz antiterrorismo di ieri. Indagine nella quale è emersa l'esistenza di un gruppo estremista islamico collegato all'ISIS che pianificava attacchi in Italia. Sentiamo il servizio. Quelle arrestate ieri nell'operazione antiterrorismo in Lombardia erano persone molto pericolose in diretto collegamento con altri soggetti già operanti in Siria che li incitavano a compiere attentati qui in Italia. Ed è la prima volta, raccontano gli inquirenti, che questo avviene, come conferma il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli quando ricostruisce la piramide di comando. Mutarrik, 28 anni, marocchino, operaio in un pastificio di Lecco, scopriranno gli agenti di polizia che lo seguono 24 ore su 24, voleva essere il primo a colpire in Italia. Lui, lupo solitario, kickboxer, semiprofessionista, vorrebbe dunque avere un posto d'onore nella Guerra Santa, a patto, dirà ai suoi interlocutori dell'ISIS, che si metta al sicuro la moglie e i figli di 2 e 4 anni, ora dati in affidamento temporaneo al nonno. A lui arriva in un messaggio audio su WhatsApp quello che gli inquirenti definiranno il poema bomba. Fai esplodere la tua cintura nella folla, dice un passaggio, e lui, al colmo dell'esaltazione, replica: giuro che attacco il Vaticano. È a questo punto che si decide di intervenire. Scattano gli arresti, non si può arrischiare. L'inchiesta, spiegheranno gli inquirenti, non ha collegamenti con gli attacchi di Parigi o Bruxelles. Restano, sotto la lente dei servizi, i molti, quasi 100 siti considerati a rischio e le persone che vi ruotano attorno. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Se la pericolosità dei terroristi è alta, è elevato è anche il modus operandi dei nostri servizi di intelligence, a sottolinearlo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, che ai nostri microfoni sottolinea l'efficacia delle indagini, la capacità di fare passare le informazioni tra polizia e carabinieri e la volontà di collaborare anche a livello europeo. In particolare, dice Roberti a Radio 24, andrebbe realizzata una procura europea per il coordinamento delle indagini in materia di terrorismo. Quello che conta in questo momento è il coordinamento con i mezzi che abbiamo, con Europol, con Eurojust e con le procure distrettuali coordinate dalla Procura Nazionale. Io credo che tutto si possa migliorare, ripeto, la Procura Europea quando verrà realizzata sarà sicuramente un passo avanti, però non è un passo avanti che si può fare immediatamente. Per ora, diciamo, allo Stato credo che il sistema funzioni e funzioni nel modo migliore. Tutto si può migliorare, ripeto, certo. In questo campo noi dobbiamo, poi siamo costretti un po' anche a inseguire l'evoluzione del fenomeno, che è in costante evoluzione. Adesso parliamo di guerre. Quasi 10.000 persone sono rimaste uccise e oltre 20.000 ferite dall'inizio del conflitto in Ucraina 2 anni fa. Lo ha detto il Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'assistente del segretario generale per gli affari politici, precisando che i morti sono stati 9.333. E si continuano a contare le vittime anche in Siria. Secondo le ultime notizie sarebbero oltre 200 le persone uccise nell'ultima settimana di bombardamenti sulla città di Aleppo, nel nord della Siria. Aleppo è una delle città più importanti e l'obiettivo di Damasco è riportarla sotto il proprio controllo. Allora vorrei partire da qui con l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, parliamo di questa città molto importante, uno snodo molto importante all'interno della Siria. Aleppo è una città di 2 milioni e mezzo di abitanti, era una città di 2 milioni e mezzo di abitanti perché è stata ormai completamente decimata dalla guerra, forse sono rimasti 250.000 abitanti in condizioni di vita assai difficili, soprattutto coloro che vivono nelle aree dei ribelli perché in questo momento sono assediati dalle forze di Assad, dall'aviazione russa, e si è capito molto bene anche ieri con il bombardamento dell'ospedale sostenuto da Medici Senza Frontiere che la situazione è diventata drammatica, talmente drammatica che oggi è stata addirittura sospesa la preghiera del venerdì. Stati Uniti e Russia cercano di rilanciare questo cessate il fuoco che non è esile, come viene detto nel linguaggio un po' eufemistico della diplomazia, ma è completamente naufragato. Vorrebbero rilanciarlo entro il 30 aprile, dalla mezzanotte di domani, però sono escluse e vengono incluse Damasco e Latakia, ma viene esclusa Aleppo. Che cosa significa questo? Significa che forse gli americani stanno dando via libera a questa offensiva del regime e della Russia contro i ribelli di Aleppo. Sì, parliamo anche del ruolo dell'Iran. Tu hai citato la Russia e gli Stati Uniti. L'Iran ha un ruolo molto importante, tra l'altro, ma lo dico come inciso perché non penso che abbia sia determinante per il conflitto siriano. Oggi l'Iran torna al voto per eleggere 68 deputati che ancora mancano all'appello del nuovo Parlamento dopo il voto che abbiamo raccontato del 26 febbraio che ha designato la stragrande maggioranza dei membri del Parlamento, 222. Ecco, tornando invece al ruolo dell'Iran in questa guerra. Il ruolo dell'Iran in questa guerra è sempre stato decisivo perché l'Iran è l'alleato, come Mosca, è alleato da tantissimi decenni del regime degli Assad. La Siria ha sostenuto, è stato l'unico paese arabo che sostenne l'Iran durante la guerra degli anni Ottanta, quando Saddam Hussein attaccò la Repubblica Islamica di Khomeini. Quindi è chiaro che gli iraniani non solo sostengono Assad, ma recentemente hanno anche rafforzato la loro presenza nel paese, perché è evidente che questa offensiva di Aleppo è decisiva anche per loro. Gli iraniani hanno un asse sciita che parte da Teheran, passa per Baghdad dove c'è un governo a maggioranza sciita, fa tappa a Damasco e arriva fino agli Hezbollah libanesi. Questa è la partita in gioco con il fronte sunnita ormai da parecchio tempo, perché questa guerra siriana è stata quasi sin dall'inizio una guerra per procura tra l'Iran e i sunniti. Grazie ad Alberto Negri, noi ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. Effetto giorno. Ancora una buona giornata da Enrico Pagliarini, queste sono le notizie principali. Per la stima preliminare dell'Istat, disoccupazione a marzo all'11,4% ai minimi del 2012, ma dall'inflazione nessun segnale positivo, l'Italia rimane in deflazione. Governo contestato a Pisa, scontri fra polizia e antagonisti. Violentata e buttata dal balcone, svolta nelle indagini sulla morte della piccola Fortuna 2 anni fa, Caivano ha arrestato il compagno della vicina di casa. Abitanti del quartiere della Calza a Palermo accerchiano la polizia, aiutano un rapinatore a scappare. Gli agenti sono stati costretti a sparare in aria per disperdere la folla. Riprendiamo con una notizia che riguarda l'Europa alle prese con i problemi della Grecia. I ministri delle finanze dei 19 paesi dell'Eurozona si riuniranno in via straordinaria lunedì a Bruxelles per tentare di raggiungere un accordo sulla prima revisione del terzo programma di aiuti alla Grecia. Lo ha comunicato il portavoce dell'Eurogruppo questa mattina. La riunione dovrebbe cominciare nel pomeriggio. Una riunione dell'Eurogruppo prevista per ieri era stata cancellata di fronte alle difficoltà che ancora ci sono con il governo di Atene. Parliamo di soldi, quelli di casa nostra. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una circolare che contiene le linee guida della lotta anti-evasione. Del tema ovviamente si è occupato il Sole 24 Ore con molti dettagli. Allora noi ci facciamo raccontare da Giovanni Parente della redazione del Sole 24 Ore quali sono le principali novità. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, tra le principali novità di quest'anno c'è sicuramente una minore attenzione verso i di modico valore, modica cifra. Insomma, l'Agenzia delle Entrate promette di non concentrarsi solo sui semplici errori commessi dai contribuenti, soprattutto quando questi errori determinano scostamenti di poco valore. Poi un altro aspetto abbastanza importante, anche sulle sollecitazioni che ci sono state negli ultimi periodi, sono quelli relativi agli accertamenti, ai controlli relativi a case immobili. Viene previsto un maggiore coinvolgimento del contribuente e una maggiore attenzione anche all'effettivo valore, all'effettivo posizionamento dell'immobile, perché insomma sono stati segnalati diversi problemi negli accertamenti catastali che non corrispondenti all'effettivo valore poi dell'immobile contestato dall'Agenzia delle Entrate. Altro aspetto molto importante è l'attenzione sulle frodi fiscali, su cui l'Agenzia punta decisamente sia per quanto riguarda le frodi internazionali sia per quanto riguarda le frodi interne. E infine proseguirà il sistema delle comunicazioni attraverso degli alert in caso di anomalia, in caso di anomalie riscontrate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, un sistema come dire, di comunicazione preventiva teso a far ravvedere il contribuente e non ad accertarlo, di modo che il contribuente possa sistemare la propria situazione. Grazie a Giovanni Parente, buon lavoro, a presto Giovanni. Grazie a voi. Naturalmente dettagli sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com e anche sul giornale in edicola. Il 1 maggio 2015 apriva Expo, ne abbiamo parlato tantissimo, da un po' di tempo non se ne parla, ma il prossimo 1 maggio, quindi fra un paio di giorni, non possiamo dire che Expo riapre, ma riapre almeno per una cerimonia domenica una piccola area destinata ad un evento al quale sono invitate alcune centinaia di persone, ma è sicuramente una buona occasione per riparlare del futuro di questa area molto importante, vicina a Milano, ben collegata da metropolitana, ferrovia. Francesca Brianza è l'assessore regionale della Lombardia che si dedica al Post Expo. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, prima di chiederle che cosa succederà nel futuro di Expo, le chiediamo che cosa succede invece domenica. Ah, domenica, giustamente, riapriamo parzialmente l'area che ha visto per 6 mesi l'esposizione universale. Esattamente un anno dopo, terminato diciamo la parte più impegnativa, che è stata quella dello smantellamento, pur non completamente terminata, era intenzione di Regione Lombardia quella di ridare subito vita al sito, di riaprirlo, di non lasciare che diventasse neanche per un momento un'area abbandonata. E quindi un anno di distanza ci sarà questo concerto dell'Accademia del Teatro La Scala di Milano, più uno spettacolo che rivedrà anche l'albero nuovamente al centro dell'attenzione, l'albero della vita che è stato il simbolo di Expo per 6 mesi, che è rimasto sul sito, tornerà ad accendersi con uno spettacolo proprio per la serata, perché questo vuole essere davvero un po' la riapertura, ma la riapertura sotto nuovi auspici, ecco. Questa è una riapertura, sì, è stata una sarà una riapertura simbolica, non sarà una riapertura al pubblico, giusto? Nella giornata di domenica no, si tratta di un concerto a inviti, ma il progetto che abbiamo in mente come Regione Lombardia e che si sta andando concretizzando è invece poi quello della riapertura al pubblico, e che vedrà poi già una serie di appuntamenti calendarizzati, il primo fra tutti il prossimo 25 maggio, dove ci sarà un grande concerto di Bocelli in occasione del prologo della finale poi della Champions League che si terrà a Milano, e poi una serie di altri eventi, tra cui anche delle mostre organizzate dalla Triennale di Milano proprio sul sito, quindi tanti eventi, perché vogliamo riaprire il sito alla cittadinanza, una parte del sito, una parte importante, il Cardo comunque. Sì, sì. Che cosa sarà del futuro di quest'area, che è un'area molto, molto vasta, molto grande e, come dicevo, molto ben collegata vicino alla città di Milano? Diciamo che quest'area ha delle potenzialità inimmaginabili, perché sono stati davvero notevoli gli investimenti che si sono fatti in previsione di Expo in termini infrastrutturali, di servizi, di collegamenti, e quindi è un'area che di per sé ha già una grandissima potenzialità. Oggi ci siamo dati questo primo step, che è quello che abbiamo ribattezzato del Fast Post Expo, e quindi una riapertura parziale, immediata, per tenerlo vivo, in attesa poi di quella che sarà la destinazione definitiva, vera e propria, del Post Expo, che anche in questo caso si sta delineando rapidamente e ha già visto, per esempio, l'intervento significativo in termini anche progettuali dello Human Technopole Italia 2040. Che è il progetto rivolto poi all'innovazione, ricerca tecnologica, scientifica e anche nel settore agroalimentare, che sta prendendo avvio. Sì, le faccio un'ultima domanda sui tempi. Quando, secondo lei, si potrà dire abbiamo deciso che cosa ne sarà di tutta quest'area? Perché naturalmente il Technopole sarà un'area limitata, non potrà essere grande, sarà lungo 1,5 km. No, assolutamente, anzi Technopole sono 70.000 metri, bisogna dire le cose come stanno, esatto. Quindi c'è tutta un'ulteriore parte che sarà sviluppata poi sull'area, si sta ancora discutendo con le nostre università milanesi per il discorso del campus universitario, ma poi anche altre strutture rivolte al pubblico, strutture sportive che per esempio oggi a Milano mancano e di cui si sente la necessità. Diciamo che avevamo qualche nodo importante da sciogliere in questi mesi, in queste settimane, che era quello dell'entrata del governo nella società che oggi ha la gestione del sito, cioè nella società Arexpo. Perché come Expo è stato un gioco di squadra dove tutti gli attori hanno fatto la loro parte e l'hanno fatta in modo significativo, altrettanto deve essere per quest'ulteriore fase del post-Expo, dove tutti gli attori, per cui Regione Lombardia, Comune e indubbiamente Governo, devono fare gioco di squadra per ottenere un risultato che deve essere di portata internazionale come lo è stato Expo. Qui abbiamo avuto, ahimè, appunto qualche settimana un po' di passione, ma adesso dovremmo aver superato questi ostacoli, per cui noi si inizia come Regione Lombardia ad investire e a scommetterci da subito con questa prima fase, e poi contiamo a breve di avere la definitiva progettazione dell'area, in modo poi da riuscire ad avere, da un lato, continuare con questa attività, diciamo, di intrattenimento e di apertura al pubblico, e dall'altra, nel frattempo, avviare poi la fase che porterà alla realizzazione del post-expo, che quindi interesserà tutta l'area. Giugno o fine anno? Oddio, giugno, fine anno, prendiamoci una via di mezzo. A settembre. Parliamo di settembre. Bene, grazie a Francesca Brianza, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Assessore regionale della Lombardia che si occupa del Post Expo, e come sempre le cose non sono semplici e facili. Sono le 13:31 minuti, tra poco le notizie che arrivano dalla borsa. Effetto giorno. Riprendiamo alle 13.34 minuti, queste le notizie principali. Per la stima preliminare dell'Istat, disoccupazione a marzo all'11,4%, ai minimi dal 2012, ma dall'inflazione nessun segnale positivo. L'Italia rimane in deflazione. Governo contestato a Pisa, scontri fra polizia e antagonisti. Violentata e buttata dal balcone, svolta nell'indagine della morte della piccola Fortuna 2 anni fa a Caivano, arrestato il compagno della vicina di casa. Abitanti del quartiere Calsa a Palermo accerchiano la polizia e aiutano un rapinatore a scappare. Gli agenti costretti a sparare in aria per disperdere la folla. Adesso i mercati finanziari. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Un gruppo di abitanti del quartiere Calsa di Palermo e alcuni commercianti hanno aiutato un rapinatore inseguito dalla polizia a scappare. Gli agenti sono stati accerchiati dalla folla e il bandito si è dato alla fuga, è stato poi preso. Addosso a un complice fermato, gli investigatori hanno trovato una pistola calibro 7,65 col colpo in canna. Gli agenti, per disperdere la folla, hanno sparato alcuni colpi in aria. Sentiamo il servizio da Palermo. Porta un nome arabo perché araba è la sua origine, figlio come fu della volontà dell'emiro che qui vi creò il suo fortilizio. Ma il quartiere della Calsa, cuore del centro storico di Palermo, per i palermitani è qualcosa in più. Qui vi si trovano chiese, palazzi del potere, musei, la sede dell'università e vi si trova il Giornale di Sicilia, il quotidiano cittadino che in oltre 100 anni di storia ha raccontato le trasformazioni di questa città che sembra rimanere immutabile. Nel quartiere che fu il regno di Don Masino Spadaro, re del contrabbando di sigarette, definito proprio il re della Calsa, ma anche del parroco che si recava a confessare in latitanza il boss Pietro Aglieri. Il passato che non passa si è materializzato con quella che è stata definita la sommossa contro i poliziotti per far scappare un rapinatore, poi effettivamente fuggito. Protagonisti cittadini e commercianti, gli stessi da cui ci si aspetta impegno contro la mafia e l'illegalità. Questione di tempo e gli uomini della squadra mobile prenderanno l'uomo fuggito, che con altri 3 complici ha rapinato un commerciante del mercato ortofrutticolo, portando via un bottino di 10.000 euro, ma la ferita resta aperta. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Alle 13.40 minuti cambiamo completamente argomento. Questa mattina la stampa, il quotidiano La Stampa, parla di un allarme per i furti nei vitigni del Prosecco. Allora ci siamo incuriositi e anche in qualche modo allarmati, visto che l'Italia è una nazione che punta molto sull'export del vino e in modo particolare siamo noti nel mondo per il Prosecco, una delle nostre eccellenze. Stefano Zanette, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, benvenuto. Pronto? Zanette, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Che cosa sta succedendo? Perché c'è questo allarme furti? Parliamo di pochi furti o invece di una quantità che giustifica questo allarme? No, in realtà la notizia sta diventando clamorosa e sta così avendo grande rilevanza su tutte le prime pagine. In realtà sono dei furti, ci sono purtroppo, ma sono dei furti che sono sempre anche avvenuti e non hanno certamente giustificazione di nessun genere, visto che comunque un atto illegale e noi lo condanniamo. Dopo, da qui a parlare di racket o di faida tra prosecchisti, un po' Senta, ma il clamore che può generare il fatto di essere diventati in questo momento qui così, diciamo, è il pegno che si paga anche alla notorietà. Quale sarebbe il motivo per cui vengono rubate alcune piante di vite, di prosecco? Allora, vengono rubate queste barbatelle, in realtà sono di glera, che è il vitigno, che poi all'interno della nostra area può prendere il nome di Prosecco se ne ha diciamo le caratteristiche, se è iscritto all'albo, allo schedario viticolo come Prosecco DOC. In realtà questi furti sono dovuti anche alla mancanza di barbatelle, visto che ci sono anche dei nuovi impianti che vengono fatti e quindi c'è questa giustifica il fatto che si vadano a trovare in un terreno vicino in un modo scorretto. Ecco, ma queste sono cose che sono sempre avvenute. Adesso, come ripeto, si parla di qualche centinaia di barbatelle che vengono sottratte dal terreno di qua e di là, ma se si considera che per fare un ettaro di nuovo impianto ne servono dalle 3.000-3.300 barbatelle per ettaro, si capisce che i numeri sono esigui. Certo, quindi insomma nessun allarme, e quindi noi la ringraziamo anche per averci raccontato e ovviamente ridimensionato il tutto. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, buon lavoro a lei, buon ascolto a tutti. Prima di una pausa e poi la linea andrà ad America 24, diamo una notizia che arriva dalla Norvegia: un elicottero con almeno 14 persone a bordo è precipitato su un'isola vicino a Bergen, non ci sarebbe nessun sopravvissuto. Secondo le ultime notizie l'elicottero è andato completamente distrutto, adesso la viabilità.